Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 19 gennaio, buongiorno di nuovo a tutte e tutti. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno a tutti. Salutiamo i nostri ascoltatori sempre tra la città e il carcere e rieccovi di nuovo qui per questa mezz'ora di programma quotidiano Liberi Dentro e Duradio in questa nostra prima settimana che inaugura il programma, che fa da ponte tra la città e uno dei quartieri che possiamo considerare il più cosmopolita della città di Bologna, no? Perché certo, abbiamo un sacco di presenze culturali diverse, provenienze, lingue, dialetti, e quindi possiamo veramente considerarlo una grandissima ricchezza. Oggi è un quartiere della nostra città, della nostra città a tutti gli effetti, particolare perché sono le persone si trovano ferme perché hanno commesso qualcosa per cui devono essere fermati. Tanti mi hanno detto dovevo essere fermato. Non possiamo escludere che non ci siano anche degli errori, che qualcuno paghi per ciò che non ha commesso, questo rimane sempre, però tanti lo riconoscono, però nessuno è mai solo il proprio reato, il proprio processo, la propria questione, la persona è sempre più grande di questo ed è portatore di tanti valori culturali e spirituali che servono per l'intera città. Proprio così, e riprenderemo questo argomento anche dopo con uno stralcio di lettera che vi leggerò, ma intanto volevo aprire con una notizia, sempre dall'Italia, il giornale che leggo ora è Bergamo News, dove alcuni detenuti sotto Natale, alcuni detenuti della casa circondariale bergamasca hanno messo nero su bianco, scritto delle lettere che racchiudevano le loro speranze per il Natale, questo Natale 2020 appena trascorso, che è stato veramente particolare. Tutti siamo stati in qualche modo rinchiusi nelle nostre case e in carcere è stato ancora più pesante come tempo trascorso. E i detenuti hanno voluto ricordare anche la figura di Don Fausto Resmini, fondatore della comunità Don Milani di Sorisole, che è stato per anni cappellano del carcere, purtroppo è stato stroncato dal coronavirus, ma una figura veramente particolare perché si è occupato per anni del recupero di minori difficili e è diventato una delle figure di riferimento tra i cappellani di tutto il nord Italia. E adesso invece Ignazio parlaci un pochino di notizie dal mondo, tu. Dunque oggi siamo in Marocco, questa notizia è una notizia importante, una notizia seria, anche dobbiamo dire una notizia che ci deve far pensare, perché gli argomenti che trattiamo sono argomenti anche che ci devono aiutare a riflettere. Questa viene dal giornale Al-Akhbar, anzi As-Sabah, il mattino, è un giornale del Marocco, in cui sembra che si registri un forte aumento in questi mesi dei casi di violenza sulla donna tra le mura domestiche, anche in relazione alle misure di contenzione, di distanziamento sociale. Lo leggo in arabo, questa notizia che viene dal giornale As-Sabah: Afadat Federalia Rabita Hukuk Nisa Anna Al-Unfa Didda Nisa Fil Mamlaka سجل خلال فترة الحجر الصحي والتواري الصحية ارتفاعا بالنسبة 31% مقارنة من الفترة نفسها من العام الماضي. Cioè dice che questa lega dei diritti delle donne in Marocco ha registrato un aumento dei casi di violenza sulla donna a vari livelli, può essere anche lo schiaffo, ma neanche lo schiaffo deve essere dato. Ecco, oltre il 30% negli ultimi mesi. Ci sono altre fonti che dicono altri dati, ma insomma mi sembra che sia importante dire questo, perché dobbiamo pensare che chi fa violenza sulle donne fa violenza anche su se stesso, perché l'uomo e la donna sono uguali davanti a Dio per chi ci crede, e quindi non possiamo fare un'ingiustizia nei confronti di una donna senza che gli uomini la facciano anche verso se stessi, verso la propria dignità. Molto bella questa cosa che dici, parlando sempre di donne, Adesso lanciamo un brano musicale di una grande donna del nostro Medio Oriente, sempre Fairuz. Cosa Che abbiamo sempre oggi? abbiamo Fairuz, ci accompagna Fairuz che canta un pezzo che a me piace moltissimo, Ya Hajar al Sannin, cioè O pernice del Monte Sannin, che è in Libano, è fatto a ritmo di Debke, che è il grande ballo famoso che si balla nello Sham in Siria, in Giordania, anche in Palestina, e quindi fa venire voglia di ballare. Ascoltiamolo insieme e magari balliamo anche. يا حجل صنين بالعلالي يا حجل صنين بالجبل خبر الحلوين على حالي خبر الحلوين يا حجل يا حجل صنين بالعلالي يا حجل صنين بالجبل خبر الحلوين على حالي خبر الحلوين يا حجل يا حجل صنين بالعلالي يا حجل صنين بالجبل خبر الحلوين Eccovi con noi dopo aver ascoltato Fairuz, il nostro stacco musicale che ci accompagna sempre. Leggerei ora una delle lettere di Natale che invece è arrivata alla nostra redazione di Liberi Dentro Eduradio, dalla sezione del femminile della Dozza. Chi ci scrive è Sonia, che voglio sempre ringraziare molto perché Sonia ci ha scritto anche altre volte e riporta una cosa molto importante che vi accennavo prima. Innanzitutto lei dice. Racconta l'emozione di quelle giornate di trasmissione che abbiamo fatto a Natale e questo, diciamo, sentimento di allegria perché personalmente per lei e le altre detenute assistere a queste puntate di Natale col fatto che li abbiamo in qualche modo pensati è stato per loro una grossissima emozione. Però lei dice anche una cosa molto importante. Intanto ci dà un'idea, cioè nel programma dare spazio a una parte riservata ai garanti dei detenuti, quindi coinvolgendoli a far capire alla città che non tutti i detenuti sono tali perché vengono da ambienti meno abbietti, cioè ma far capire che ad ogni persona può accadere qualche disgrazia per cui ci si ritrova a vivere la detenzione. Cioè, questa cosa la dobbiamo ricordare, non bisogna mai fare una generalizzazione all'interno del carcere, vero Ignazio? Certo, credo che questo sia molto importante. Importante sempre dare il livello, la giusta considerazione a chi sta scontando una pena e anche a tutte le persone che intorno a loro si attivano per la loro risocializzazione, per aiutare anche a trovare un lavoro, uno studio, una nuova opportunità. E parlando, riconnettendoci un pochino al Galateo Arabo, alla rubrica di ieri, oggi riprendiamo il filo e parliamo sempre di generosità. Ti do la Sì, parola. il secondo punto di questo Galateo sulla generosità è questa cosa qua, lo leggiamo sempre un po' in arabo per chi così comprende, fa anche un po' di esercizio di arabo letterario, ragazzi, perché non si può parlare solo il dialetto o Tunisia o Marocco o Algeria, bisogna parlare l'arabo, il fusha. Allora, il secondo punto è il legame tra generosità e felicità. Ascoltate che bello. Iala, Anna, Kaunika Kariman. يجعلك سعيدا على الرغم من أنه لا ينبغي أن تكون كريما لصالح احتياجاتك الخاصة إلا أنه يجب أن تعرف أن الأشخاص الكرماء هم أكثر سعادة من غيرهم. Allora lui dice, sappi che la generosità ti fa felice, anche quando specialmente non c'è uno scopo dietro, cioè sei generoso perché quello lì ti dà poi il cambio, ti ricambi il favore. E che bisogna che tu sappia che le persone generose, kurama nell'arabo letterario, sono le più felici. E c'è questo bellissimo detto, no? Che noi diciamo sempre, anche in arabo, tante volte l'ho sentito, in Siria, Damasco, al-yad al-ulya afdal min al-yad al-sufla, cioè la mano superiore, cioè quella che dà, è più felice della mano che sta sotto, ma è importante che sia fatta senza takabbur, no? Senza che ci sia superbia, cioè io ti do, quindi sono superiore a te. No, io sono generoso. E bisogna ricordare che anche un sorriso è un atto di generosità, questo è molto importante nel Galateo arabo. Se non puoi dare dei soldi, se non puoi dare del cibo, se non puoi dare un vestito, però di una buona parola, fai un sorriso sul volto del tuo amico. E quello sarà un atto di generosità. Quindi la generosità come farma, come cura del cuore, vero? Si può considerare. Ed è quello che noi possiamo fare scambievolmente, anche in una situazione così difficile come il carcere, dove tante volte si perde la pazienza, però anche nelle nostre case, in questo momento siamo un po' tutti carcerati, eh? Quindi un atto di generosità scioglie tanti problemi. Bene, grazie Ignazio. Lanciamo il nostro secondo brano musicale e io lo dedicherei a Lucio Dalla, caro amico, perché oggi abbiamo ricevuto delle lettere. Ringrazio ancora Sonia, le detenute del carcere della Dozza, con tanto affetto, e le dedico a tutte loro. Caro amico, ti scrivo, Lucio Dalla. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni di Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli. E rieccomi qui con noi su Liberi Dentro. Siamo qui con il secondo ospite della giornata. Siamo con Rosanna Sirignano, che in realtà conoscete perché Rosanna ci ha accompagnato anche nella prima parte di Liberi Dentro Eduradio con pillole sulla cultura islamica. Rosanna è dottoranda in studi islamici e studi transculturali presso l'Università di Heidelberg ed è anche una formatrice. Infatti negli ultimi anni si è impegnata tantissimo nel promuovere il dialogo tra le religioni e le culture sia a livello locale che nazionale, e starai con noi delle diverse volte, spero spesso, per parlare di temi, fare una rubrica su quelli che sono le parole chiave della religione islamica. Oggi parliamo di, dimmelo tu, Islam. Quindi? Cominciamo, ecco, proprio dalla prima parola, che è Islam, una parola, ecco, che a volte in italiano viene pronunciata Islam, ma è che in realtà in arabo, ecco, si pronuncia così, Islam. E cerchiamo di andare un po' a fondo a questo significato. Molto spesso viene tradotto con la parola italiana sottomissione, questa è una delle traduzioni, ma ecco, tradurre un termine di una lingua che è totalmente diversa dalla nostra, che è portatrice di una cultura totalmente diversa, dico totalmente perché si trova esattamente dall'altra sponda del Mediterraneo, è sempre un po' problematico. E quindi, ecco, per andare un po' dentro al significato profondo, anche spirituale, di questa parola, voglio cominciare con una citazione della grande studiosa Eva De Vitré Meyerowicz. Lei è stata una grande studiosa di sufismo e ha tradotto moltissime opere di Rumi in francese, e lei ha questa domanda, cioè che cos'è l'Islam, cosa significa la parola Islam, risponde: si potrebbe rispondere con una parola sola. Quindi non dà una sola risposta, ma dice si potrebbe rispondere, già qui capiamo, no? Entriamo nella complessità della questione. Dice si potrebbe rispondere con una parola sola, la preghiera, purché la si intenda in quanto designa, al di là degli atti cultuali, l'impegno dell'uomo nella sua totalità. Ed è proprio questo il significato del termine Islam, che deriva dal verbo aslama, consegnarsi, abbandonarsi a Dio. Le parole in arabo si costruiscono diversamente dall'italiano. C'è una radice, e nel caso di Islam la radice è s-l-m, quindi se le vogliamo, insomma, menzionare come lettere, sono sin, lam e mim. E da queste tre consonanti si formano una serie di parole. E questa parola aslama, da cui proprio direttamente deriva la parola Islam, ecco, più che sottomissione è un abbandono fiducioso, è un consegnarsi, è un lasciarsi andare al fluire della vita. Ed è interessante che dalla stessa radice sin, lam, mim deriva un'altra parola che è importantissima per l'Islam, ma anche per il vivere quotidiano di tutti, che è salam, che appunto vuol dire pace, pace nel senso di armonia del tutto, pace nel senso di serenità. Quindi una parola che nella sua etimologia rimanda a tutto un significato che è di ritualità, potremmo dire, no? Cioè l'abbracciare della persona nell'atto della preghiera, si potrebbe dire, se ho capito bene. Sì, un atto della preghiera che, come ci suggerisce l'autrice, è al di là dell'atto proprio rituale della preghiera, ma è piuttosto un movimento del cuore. E quindi già si intuisce che la preghiera come rituale da sola non basta, e anzi, se non è illuminata dalla fede, da questa tensione a lasciarsi andare, ad abbandonare l'illusione del controllo, perché questo vuol dire abbandonarsi, comprendere che noi non possiamo controllare niente. Esatto. E forse il 2020 è stato l'anno che più ci ha insegnato cosa vuol dire Islam, quindi ecco che il significato di Islam non è più quello di una religione che è stata fondata nel VII secolo dal profeta Muhammad, non è più una parola che appartiene solo alla comunità dei musulmani, ma è una parola universale che appartiene a tutti. Ti interrompo un attimo perché abbiamo un brano musicale da lanciare che tu ci dedicherai, anzi te lo chiedo proprio, cosa lanciamo oggi? Bene, lanciamo Gymnopédie An di Erik Satie, che è un brano a cui sono molto legata, che è proprio un brano che vi consiglio di ascoltare lasciandovi andare. È un brano molto evocativo, quindi ci lasciamo andare a questo suono. Bene, Erik Satie. Dopo aver ascoltato Erik Satie, che ho scoperto anch'io oggi grazie a te, quindi grazie, e riprendiamo sempre dalle radici etimologiche di Islam. E in particolare, come potremmo continuare il nostro discorso sull'etimologia di questa parola? Sì, dalla radice sl-m, quindi le consonanti che compongono la parola Islam, come abbiamo detto, si forma la parola salam, ma è anche la radice della parola musulmano, che in arabo si dice muslim nel caso di un uomo, muslima nel caso di una donna. Questo prefisso mu, questo mu che vedete all'inizio, è tipico, ecco, dell'arabo, perché le parole arabe hanno delle strutture abbastanza schematiche. Quindi, per esempio, il muallim, vedete questo mu, muallim, è il maestro. E il muhandis, per esempio, è l'ingegnere. Quindi il musulmano è la persona che si abbandona, è la persona che pratica l'Islam, ma è anche la persona che decide di abbandonarsi a questo movimento del cuore. E non è la stessa cosa che l'islamico. A volte si sente, no, nei giornali, in TV, questo l'islamico, oppure, ecco, Rosanna Sirignano, islamica. Ecco, islamico invece, il termine islamico, viene da un'altra parola araba che è islami, che invece è l'aggettivo che si, è l'aggettivo islamico che però si usa per le cose, per la cultura, per i luoghi islamici. Ed è bellissimo che l'italiano ha mantenuto questa differenza. Quindi l'italiano rispetta in qualche modo la sensibilità della lingua araba mantenendo questa differenza fra musulmano e islamico. Grazie Rosy, e ci hai detto anche che una cosa molto bella, che abbandonarsi senza controllare. Quindi se ti chiedessi proprio in 30 secondi cosa significa per te abbandonarsi nella tua fede senza controllare la tua vita, le relazioni con gli altri, come lo fai? Significa, ecco, sforzarsi continuamente di vivere nel presente, di vivere qui ed ora e di attraversare ogni respiro, lasciando andare il passato che ormai non è più e lasciando andare il futuro che non è ancora, guardandolo piuttosto con fiducia e speranza. Ti ringrazio tantissimo, grazie di essere stata con noi di nuovo su Liberi Dentro e ora un brano lo lancio io, non so se lo conosci, Edoardo Bennato, cantautore italiano, Che il Mediterraneo sia, così rimaniamo nei nostri temi e nel nostro Mediterraneo. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Va da sole, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo. Che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio, che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. E rieccovi sempre per salutarci alla fine di questa seconda puntata di Liberi Dentro Edu Radio. Ci rivediamo sempre domani, ore 9:30 su Radio Città Fujiko, mentre alle 10:30 sul canale 636 di Teletricolore. Vi invitiamo sempre a scriverci alla casella postale di Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure all'indirizzo postale liberidentro.eduradio@gmail.com. Mi raccomando, fatelo perché abbiamo bisogno delle vostre lettere, dei vostri suggerimenti e dei vostri suggerimenti anche musicali. L'ospite di domani, ve la anticipo, è Roberta Licalzi per parlarci di sport e anche di quello che possiamo fare all'interno di spazi ristretti per allenarci. E un saluto a tutti e a tutte e noi ci vediamo sempre qui domani a Liberi Dentro.